questo è il rap game. Lord P, strano studio, Morpheus, il tuo approccio è evidente, che il rapporto tra un confronto irresponso e deprimente. Questo gioco non offre sconto, è la gente che soffre troppo. In questa messa in scena è messa in gioco, gioca poi perde. Perché da troppo che covo un sogno latente, mentre metto a fuoco e cuoto la lente, muovo, scuoto il quoziente, non ho bisogno di scelte, perché gioco da sempre, giochi di mente, perché per me è un gioco da niente. Devi affermarti per dire agli altri arretrate, prima che in tanti possano atterrarti. Devi addentrarti e attentarti, la fetta di torta più grande, le rime più complicate. Ho speso molto, ti prendo a sberle facendo il resoconto, prima che tu te ne sia reso conto. Hai fatto il botto, non sento niente, solo scorregge. Dammi grammi contanti, due barbi con cui scordarmi dei tanti drammi. Gioco da niente a liberarmi di sti sbarbi. Se vuoi calmarmi, bitch, arrivi tardi. Tu parli, io spingo fatti in tutti i sensi. Non perdo tempo con bimbi fake depressi. Cresciuto a pane e versi, fra pari amplessi, fra pastori tedeschi in cerca di sensi. Se resti nel gioco di te non resta arresti. La mia foto è come mafia, non la arresti. Ci sono pezzi di merda che fa gli onesti, poi il gioco li rivela, infermi vermi freschi. Rap Alonso, starmi dietro non ci riesci. Esci fuori, ti do schiaffi finché cresci. I rap e disciplina, sumo sudo testi. Fammi su una mina che fumo questi MC.